voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. E lei cosa si sente? Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra. Ho capito. Tre applicazioni di Afasol di un'ora l'una. Subito. Going Annichiliti? Beh, annichiliti no. Magari un pochettino stupiti, anche se Eclettica dovrebbe avervi abituato negli anni a non stupirvi dei suoni che in essa si sentono, però questi sono suoni che è tipico ascoltare in altri orari di Rock FM, e sicuramente Eclettica aveva abituato a suoni altri rispetto alla programmazione solita del palinsesto di Rock FM. Perché questa seconda parte di Eclettica è cominciata quest'oggi con questo brano? Perché colpito dalla pre-home page completamente dedicata a questo artista Fred Cole dalla Sub Pop, ho voluto andare a scavare un po' nella sua storia. Ammetto che prima non lo conoscevo ed è una storia che mi ha stupito. Pensate, il suo primo singolo risale al 1964 con la sua prima band, The Lords, e poi ne ebbe un'altra che inizialmente aveva un nome The Weeds, ma visto che i Seeds avevano grande successo ed era facile confondere i due nomi, cambiò il nome di quella band da The Weeds in The Lollipop Shop, e poi col passare degli anni creò questi Dead Moon, ormai in pieni anni 80, che sono arrivati nel 2006 con un doppio Echoes of the Past grazie a Sub Pop, che rende omaggio a questa band da Clackamas nell'Oregon, ma soprattutto al suo leader Fred Cole. E al suo leader abbiamo reso omaggio, come a tutti i grandi nomi, tutti i grandi nomi nascosti della storia del rock, in inizio di questa seconda parte di Eclettica. Invece direi che annichiliti è il termine proprio corretto per spiegare la reazione alle mie istruzioni per l'uso di MySpace. Fino a qualche ora prima di quelle che io ho indicato come potenziali linee guida, era molto vivo, c'era molto fermento su MySpace, non assolutamente guidato. Mi venivano chieste delle linee guida, le ho date, da quel momento in poi si è quasi tutto completamente zittito. Spero di non aver voluto sparare troppo in alto, spero di non aver spaventato. Mi auguro che sia solo qualche giorno necessario così per una sorta di assestamento, per digerire completamente quello che ho scritto, e vediamo se lo spazio di Eclettica su MySpace assume una veste vicina a quella che io ho pensato. Magari aiutatemi scrivendo a giulio@radiorockfm.com o lasciando i vostri commenti su MySpace a profilarla meglio, se ho fatto qualche errore, sono andato un po' fuori da quello che voi vi aspettavate. Sono curioso di sentire le vostre relazioni, le vostre reazioni. Per il momento vi lascio con Cathead e Cowboy, uno dei brani che più stanno passando in questo inizio di stagione di Eclettica. Pain drips on. you to me. Am I gonna be good to myself? Would you be this good to me? Il nonno, ho pensato, è arrivato per davvero, fuori piove, non è un sogno, me lo ricordo bene, mi hanno svegliato per davvero perché me l'avevano promesso di svegliarmi subito quando arrivava dall'aeroplano, anche se io dormivo, per questo avevo obbedito ad andare a dormire e non aspettarlo all'alzato. Da principio sì, ho sentito, discutevano lì al buio perché papà non voleva accendere la luce, ma la mamma ha detto gliel'ho promesso e papà ha detto e allora? Avrà abbastanza tempo per vederlo, ma la mamma si è impuntata solo per un momento. Papà viene a vederlo, sono già 3 giorni che ti aspetta, non la smette un istante di chiedere di te. Che poi non era vero nulla. Questo era l'incipit, senza segni di interpunzione, di un divorzio tardivo di Abraham B. Yehoshua. Quando vi ho introdotto a Profumo di Eclettica vi ho spiegato che non avremmo fatto Profumo di Eclettica per quanto riguarda la stagione scorsa, però ogni tanto qualche brano andiamo a ripescarlo. Six Organs of Admittance ce li siamo appena ascoltati ed ora invece sì che arriva Profumo di Eclettica. Profumo di Eclettica. time to be someone, like a valentine for a lonely soul. You can treat me like a fool. Hey, that I got in my head, laying in my bed. It's so real, 'cause I know what I feel. But together we stand, and together we lay. That's how I live tomorrow and today. Listen to the voice of experience. Stop the beat, listen to the melody. Round and round and round and round. Yeah, I know what I got to feel. A feeling of love knocking at my door. First it was 50 and then there was more. What a bore. Then there was none. Now there's one. 'Cause I'm a lucky one. Feelings of love. I got feelings of affection. Come on and give it to me. Give it with protection. There's no time. We out of luck. The law says we can't talk about it. Acquarella vuol la padella dalla sorella. La padella longa, longa, longa, longa. Finì che il medico di turno ci fece dare dei calmanti così potenti che dormimmo tutta la notte come zucche. We'll be right back. base tra Colonia e Düsseldorf, ma per il disco in questione si sono trasferiti negli Stati Uniti. Dal punto di vista dell'etichetta sto parlando di Mouse on Mars, e se decidi di andare con la Ipecac Recordings impari di sicuro a zoppicare, nel senso che decidi di fare musica non tanto facile da ascoltare, sicuramente molto piacevole, sincopata. Una nuova via al drum and bass, ma non lo so. Chartnock è il nome del brano che ci siamo ascoltati quasi in chiusura di Eclettica, che si chiude invece con un brano che è estratto da tutto un disco di tributo ai Beatles, un'altra faccia dell'elettronica, quella che arriva dalla Francia di Emmanuel Santaromana. Out. Come and keep your comrade warm back in the USSR.